notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre. L'ospedale Torrette di Ancona è una struttura pubblica, regionale. A quell'ora lungo i corridoi, dentro le sale d'aspetto, nelle stanze, le luci sono spente. Al buio per qualcuno i ricordi si fanno più marcati. Molti pazienti dormono, altri non riescono a chiudere gli occhi e osservano il soffitto, altri ancora soffrono. Il silenzio avvolge ogni cosa. Del resto, perché allarmarsi? È una notte normale, come tante del resto, in ospedale italiano. Eppure qualcosa di strano avviene nei sotterranei delle Torrette. Qualcosa che ha a che fare con una strage, mancata, appena di un soffio. Amelia Esposito. Sono da poco passate le 2 della notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre del 2000, quando le fiamme avvolgono gli scantinati dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. E il fumo denso e nero sale raggiungendo i reparti, diffondendosi nelle corsie, seminando il terrore tra i pazienti, mettendone a repentaglio la vita. È un incendio doloso, non ci sono dubbi. Qualcuno ha dato fuoco a un cumulo di rifiuti, sentenzieranno i vigili, e al carrello per la biancheria, posizionato vicino ai quadri dell'impianto elettrico e davanti alla bocca dell'impianto di condizionamento dell'aria. Le condutture funzionano come una cappa di camino, risucchiando il fumo, diffondendolo rapidamente ovunque. È grande la paura, soprattutto tra i malati trapiantati o con problemi respiratori. Più di 200 pazienti vengono fatti evacuare al buio e nessuna vittima, per fortuna, ma è strage sfiorata. Una strage voluta da qualcuno che, secondo i carabinieri, sapeva quel che faceva. Ai sotterranei può accedere chiunque. Gli investigatori tendono ad escludere che si tratti del gesto di un familiare di qualche paziente morto a Torrette ed escludono anche vendette da parte di dipendenti. Ma quel sacchetto di rifiuti, spiegano, non doveva essere lì. I piromani non possiedono un'anima, agiscono da soli o su mandato di qualcuno, ma quando sono in azione non si fanno scrupoli. Alle Torrette quella notte si poteva anche morire, ma loro sembrano tranquilli e nella loro solitudine colpiscono con precisione. Le 14 del 1 dicembre, la scena cambia. All'ospedale civile Umberto I un contenitore di plastica viene dato alle fiamme e in uno sgabuzzino del reparto gastroenterologia del sindaco primario Renato Galeazzi. Passa solo mezz'ora e un nuovo focolaio interessa un secondo contenitore. Alle 21, sempre all'Umberto I, qualcuno dà fuoco ad un cestino portarifiuti in plastica nella sala d'aspetto di gastroenterologia. Gli attentatori non si danno pace. Alle 10.30 del 2 dicembre si spostano all'ospedale Chiaravalle, incendiano un lettino pieghevole nel corridoio della farmacia. Alle 21.50 tornano all'Umberto I, il fuoco avvolge un armadietto dello spogliatoio infermieristico. Per 4 giorni non accade nulla, ma il 6 dicembre tornano all'azione. Incendio nei sotterranei delle Torrette. La loro corsa prosegue senza sosta il 7, l'8 fino all'11 dicembre, quando incendiano la casa di riposo Vittorio Emanuele II di Iesi. 14 roghi in 11 giorni, 113 pazienti evacuati d'urgenza. Perché proprio negli ospedali di Ancona? 3 anni dopo i magistrati archiviano l'inchiesta. Non è questione di cattiva volontà. La procura di Ancona sa chi sono gli incendiari, ma non ha le prove sufficienti per portarli a giudizio. La perizia agli atti dell'indagine si basa sull'unico reperto recante elementi biologici. Un mozzicone di sigaretta trovato nella casa di riposo Vittorio Emanuele II di Iesi, dove scoppiò l'incendio dell'11 dicembre. L'esito è negativo e non si può risalire al DNA del fumatore. Gli altri reperti, ritrovati negli ospedali, alcol denaturato e stracci bruciacchiati, servono a ben poco. Gli inquirenti tentano ogni strada possibile, giungono perfino a sfidare pubblicamente gli attentatori facendo capire che i loro nomi sono conosciuti. La trappola però non funziona, ma i roghi si interrompono. Resta l'amarezza per non essere riusciti ad incastrare persone che i magistrati sono sicuri ormai di aver individuato. Il sostituto procuratore della Repubblica di Ancona, Irene Billotti, titolare dell'inchiesta. Le cose certe sono che ha agito più di una persona, hanno agito in almeno 2 persone e che avevano come obiettivo quello di creare una situazione di panico all'interno dell'azienda ospedaliera per raggiungere degli obiettivi che erano po' di rivendicazione a livello, insomma, o di dipendenti o comunque di collaboratori esterni dell'ospedale, anche se io lo lascio come alternativa pur sapendo qual è esattamente la situazione, perché è segreta, diciamo, non si può rivelare, non si possono fornire dati che possano identificare queste persone. Sono stati anche individuati e perché sono stati anche accertati dei loro movimenti sospetti in occasione dei primi incendi, quelli che hanno dato il via poi a un'altra serie di piccoli incendi, non tutti ricollegabili alle stesse persone, perché ci sono stati anche atti emulativi, per cui i primi sono autentici sicuramente, i primi due, e appunto gli autori di quei primi due episodi, che sono stati poi quelli veramente importanti, sono stati individuati, perché hanno appunto fatto questi movimenti sospetti in occasione dei primi due episodi. Però sono movimenti che non ci hanno consentito di poter dimostrare in un dibattimento penale la loro colpevolezza, perché fanno capire, che fanno dedurre che loro sono gli autori degli incendi, però non costituiscono una prova sufficiente per arrivare ad una condanna. Per farli condannare sarebbe stato necessario sorprenderli sul fatto, almeno nel momento in cui si recavano sul posto con l'attrezzatura necessaria per appiccare il fuoco. Insomma, devono essere presi o in flagranza o in quasi flagranza, solo così, perché non hanno lasciato tracce tipo impronte digitali, DNA, non sono stati ripresi da fotocamere, non c'erano testimoni oculari. Tutto questo quindi non consentiva diversamente di dimostrare la loro colpevolezza. Quello che è certo è che sono stati individuati, loro sanno di essere stati individuati, quindi questo ha fatto sì che cessassero a un certo punto almeno le azioni più importanti, quelle che potevano veramente creare pericolo all'interno dell'ospedale. Poi insomma è venuta meno appunto questa possibilità di sorprenderli, li abbiamo attesi a lungo, è stato organizzato per mesi un servizio di appostamento proprio con l'idea che potessero reiterare la loro azione delittuosa, visto che non avevano ancora raggiunto l'obiettivo che si erano prefissi, che era quello di ottenere dei vantaggi appunto a livello interno, nella loro posizione lavorativa. Però abbiamo anche cercato di farli ritornare dicendo che i roghi avviati non avevano in realtà creato danno. Questo io personalmente l'avevo dichiarato ai giornali proprio per spingerli a riprovare la loro azione e poterli così cogliere sul fatto. Però evidentemente tutta la pubblicità che è derivata da questi incendi, insomma, ha creato quello stato di timore in queste persone, perché si sono resi conto che se ritornavano, se ripetevano le azioni criminose, rischiavano veramente di essere arrestate. E quindi hanno desistito, che mi sembra già un buon risultato. Gli atti di indagine sono tutti conservati, vengono archiviati, però conservati in un archivio, e verranno poi riutilizzati nel caso che si ripetano questi episodi incendiari. Quindi tutto sommato direi che il lavoro sì, non ha portato a un risultato purtroppo definitivo, però ha già avuto, insomma, parte ha realizzato gli obiettivi più importanti, che sono quelli appunto di aver fatto cessare gli incendi e di avere comunque individuato le persone. Ma quali sono i buchi neri di questa pagina di cronaca rimasta ancora irrisolta? Edoardo Danieli del Corriere Adriatico ha seguito tutti i passaggi del lungo iter giudiziario. Prendendo spunto dalle parole del PM Bilotta, e cioè sappiamo in quale ambiente si muovono i responsabili, ma non abbiamo gli elementi per consentire una loro condanna, direi che quella degli ambienti in cui si muovono è un po' il buco nero su cui andrebbe fatta maggiore luce. In ogni inchiesta, voi sapete bene, insomma, le voci che circolano sono parecchie. Ai tempi si parlò di un ambiente che poteva essere riconducibile a quello degli appalti per la sorveglianza, altri ambienti potevano essere quello di, invece questo, dal punto di vista sanitario, lo stesso un pochino contestati. Chiarire questi ambienti, che ripeto per la procura è abbastanza chiaro, ma tanto da poter dire siamo in grado di evitare in futuro che possano accadere cose del genere, potrebbe essere una cosa molto importante. Convince questa interpretazione della magistratura? Sì, direi di sì, anche perché soprattutto era riferito alla vicenda della vigilanza, potrebbero essere state più persone che hanno avuto mano a questa scia di fuoco che ha un po' tormentato Ancona a partire dal 2000, insomma, anche se fosse riconducibile invece a qualche vicenda legata all'aspetto sanitario o a qualche problema all'interno dei reparti, quella del gruppo è una tesi che convince, che regge.